Fujiko Factory, your musical playground. Buon lunedì di Fujiko Factory, parte una nuova settimana e finalmente dopo 2 anni di radio in compagnia, in conduzione con me c'è... Mauro, una conduzione tutta bergamasca. Tutta oggi, bergamasca, vedi, in un qualche modo i bergamaschi prendono sempre piede. Noi abbiamo preso piede a Bologna, ormai siamo dei bergamaschi trapiantati a Bologna. Sì, possiamo dirlo tranquillamente. Possiamo dirlo, però forse oggi sarà una puntata in cui troverete delle tracce bergamasche, a parte la nostra ogni tanto voce con un po' di cadenza bergamasca o accento, come ad esempio questa domenica al 13 sarà Santa Lucia, che io continuo a parlarne in radio, ma io so che i bolognesi non colgono. Credo sia una cosa lombarda, comunque tutta del nord. Sì. Però noi poi magari vi raccontiamo perché per noi è così importante Santa Lucia, che principalmente sono doni, ma soprattutto la nostra puntata di oggi possiamo anche secondo me definirla proprio Please Don't Stop the Music, quindi come questa rubrica inchiesta che ormai da un paio di mesi la redazione musicale di Radio Città Fujiko porta avanti. Potete trovare tutto sul nostro sito www.radiocittafujiko.it, ma appunto noi vi parleremo di classifiche, principalmente quelle di Spotify, ma soprattutto quanto ci mancano i concerti e i festival. Ecco, a proposito di concerti e festival, se volete mandarci degli aneddoti, delle cose divertenti su festival che avete vissuto in passato e quanto vi mancano, il nostro numero di telefono per SMS, WhatsApp e Telegram è il 333 180 94 94. Noi li aspettiamo, non vediamo l'ora di mandarli in onda, ma potete anche come sempre raccontarci cosa state facendo in un giorno di pioggia. Che lancio per il prossimo brano, il nostro primo brano di quest'oggi in un giorno di pioggia, i Modena City Rambler. Addio, addio, è un bicchiere elevato al cielo di Irlanda e alle nuvole gonfie, un nodo alla gola ed un ultimo sguardo alla vecchia Anna Liffey e alle strade del porto, un sorso di birra per le verdi brughiere e un altro ai mocciosi coperti di fango, e un brindisi anche agli gnomi e alle fate, ai folletti che corrono sulle tue strade. Gli esuli parlano lingue straniere, si addormentano soli, sognando i tuoi cieli, si ritrovano persi in paesi lontani, a cantare una terra di profughi e santi. È in un giorno di pioggia che ti ho conosciuta, che il vento dell'ovest rideva gentile. In un giorno di pioggia ho imparato ad amarti, mi hai preso per mano portandomi via. Già ti rivedrò ancora e potrò consolare i tuoi occhi bagnati. In un giorno di pioggia saremo vicini, balleremo leggeri sull'aria di un E questi erano i Modena City Rambler. Tra l'altro, appunto, in un giorno di pioggia e casualmente qui a Bologna inizia a vedersi un pochino di sole. Beh, forse abbiamo portato bene con questo pezzo così, un po' pioggerelloso. Esattamente, mi stava rimanendo in mano un pezzettino del mixer, ma va, funziona tutto molto bene. Fateci sapere se ci state ascoltando da dove, 333 180 94 94, ma soprattutto il festival che vi portate nel cuore. E soprattutto immagino che, come a me e a Mauro, vi mancheranno, raccontateci un po'. Tra l'altro, io in fuori onda dicevo a Mauro, oggi, appunto, essendo comunque noi lombardi, è Sant'Ambrogio, quindi facciamo gli auguri a tutti gli ambrogi e le Ambrogie, e le Ambrogie, non lo so, come nome, non lo o so, come soprannome Ambrogini. Ma soprattutto, a proposito di Ambrogio e di Ambrogini, abbiamo deciso che, visto che oggi a Milano hanno consegnato l'Ambrogino d'oro, che io l'ho conosciuto solo perché sono stati premiati i Ferragnez, comunque per il lavoro che hanno fatto di beneficenza e di organizzazione tramite i loro social, quindi anche tutto il riscontro che hanno per tutti i fondi raccolti in questo anno, quindi hanno vinto l'Ambrogino d'oro, elegantissimi, sono andati a ritirarlo sotto la pioggia anche di Milano. Ma noi abbiamo deciso che a questo punto dovremo fare anche, com'è che l'hai chiamato? I fucicchini d'oro. Chissà, così. Potremmo farli, o se no solo all'interno di Fujiko Factory. Io lo vorrei però il fucicchino d'oro. Ci pensiamo. Ci pensate? Potrebbe essere interessante e divertente. Molto divertente. Faremo un contest e sarete voi a decidere chi si merita il fucicchino d'oro. Tra l'altro, sai che ieri è stato il mio compleanno, io ho ricevuto un fantastico video di auguri da Mauro ed Erika e oggi ho portato una crostata di albicocche che è stata spazzolata in pochissimi secondi. Quindi era rimasta l'ultima fetta e me la sono mangiata io. Effettivamente molto molto buona. E infatti, se Chiara è in ascolto, visto che è stata la cuoca di questa fantastica, anzi pasticcera di questa fantastica torta, c'è stato un grazie collettivo della radio. Ma a proposito di questo, in realtà cos'altro facciamo in radio il 31 dicembre? Ecco, il 31 dicembre ci sarà una giornata, un po' una puntata lunga, speciale, dedicata alle classifiche, le top 5 di tutti i redattori, tutti quelli che fanno parte di Radio Città Fujiko. Quindi ognuno porterà la sua top 5. Sì. E io e Erika, che come ben sai tutti i lunedì portiamo il disco della settimana, abbiamo in queste 52 settimane qualche disco preferito, quindi ci sarà un po' anche la nostra top 5. Ma io sono molto curiosa, ci date qualche spoiler, almeno un disco? Beh, allora, devo dire che oggi o domani o comunque nei prossimi giorni arriverà l'ultima casa accogliente degli Zen Circus in vinile, lo porta il Corriere, quindi insomma, quello. Quindi sicuramente appena ci sarà l'ascolto in vinile andrà in prima, insomma, in alto in classifica. Assolutamente sì. Anche perché sempre sul nostro sito www.radiocittafujiko.it in realtà possono già trovare, perché li avete intervistati la scorsa settimana. Esatto. E abbiamo anche presentato il come disco della settimana. Un paio di settimane fa, quindi insomma c'è un po' di amore verso gli Zen Circus, e quindi diciamolo. Sicuramente ci sarà un posto d'onore nella vostra classifica, però effettivamente probabilmente anche io quell'album lo metterei. Io ho trasmesso più volte Catrame perché secondo me è una delle più belle dell'album, però secondo me ce ne sono tantissimi in quell'album che valgono la pena. Ma tra l'altro, parlando appunto di classifiche che spuntano fuori in ogni dove in questo periodo, una, diciamo, forse quella più oggettiva è quella di Spotify. Quindi sicuramente in questo periodo tutti state, se ascoltate Spotify, perché già abbiamo un dissing, io ho 44.000 minuti di ascolto su Spotify e tu? Io ne ho 328 in totale. La canzone che io più ho ascoltato l'ho ascoltata per 1561 minuti, quindi praticamente la metà del tuo ascolto complessivo. Esatto. Perché tu effettivamente mi dicevi che fruite, te Erika, ad esempio, la musica in un modo totalmente diverso. Sì, noi abbiamo la nostra radiolina in cucina che accendiamo appena ci alziamo, abbiamo il lettore di vinili che una volta che ce l'hai diventa una droga perché sì, non riesci a farne a meno. E poi io sono un amante di YouTube perché mi piace vedere anche i video delle canzoni che ascolto. Ma lo paghi YouTube? No, perché si paga YouTube. Perché se tu lo paghi è un po' come Spotify, non vedi più la pubblicità. Ah vabbè, ma io c'ho Adblock. Comunque... E quindi tutto torna, ma fateci sapere principalmente come fruite la musica, ovviamente a parte quando ascoltate Radio Città Fujiko, ma noi vi facciamo sentire e un po' magari ci distacchiamo da questo brano, però ragazzi è il brano più ascoltato del 2020. Sì, oddio, l'album più ascoltato l'album del 2020. Che è peggio ancora. Esatto, il brano più ascoltato in realtà è dei The Weeknd, che io ho visto pure live un paio d'anni fa in un festival che mi Dove? Manca tanto, a Berlino, a Lollapalooza. Wow. Tanta roba, il festival e anche i The Weeknd. Però allora un paio di cose. L'artista più ascoltato italiano si chiama Ta Supreme, che però evitiamo di farvi ascoltare perché sì, non è proprio tra le nostre corde, ma vi facciamo ascoltare Si Veo a Tu Mama di Bad Bunny, sì, che è l'album più ascoltato del 2020 su Spotify, esatto. Quindi vabbè, sicuramente anche il pubblico di Spotify magari è in un target ben definito, quindi sicuramente è l'album più ascoltato di un target ben definito. YouTube secondo me già ci accedono molte più persone, ma io direi alziamo il volume e che piaccia o meno ci ascoltiamo Si Veo a Tu Mama. Allora, questa che sentite in sottofondo in realtà appunto è Bad Bunny, che è l'album più ascoltato secondo la classifica di Spotify, quindi dei vari ascolti del 2020. Tra l'altro la cosa divertentissima è che chi ascolta molto Spotify in questi giorni avrà ricevuto la sua classifica del 2020, viene creata appositamente una cartella con tutti i brani preferiti del 2020 e ti fa tutta una classifica, l'artista che più hai ascoltato e devo dire che però proprio Diciamo a livello creativo è stato fatto in un modo molto divertente, come la parte che ti dice dillo pure agli ex, oppure a parte le piante nell'appartamento, cioè è fatto, devo dire, molto bene. Sta partendo la mia base preferita, non so se l'hai mai sentita, ma è quella degli Aristogatti. Ah beh, andiamo di vecchia scuola. Vecchia scuola, tutti quanti vogliono fare il jazz. Ma a proposito di musica, appunto, la nostra puntata sarà tutta a tema Please Don't Stop the Music, anche perché abbiamo una doppietta di interviste. Sì, alle 3:30, quindi fra pochi minuti. Fratissimo. Avremo con noi Luca Borsetti, che è il direttore artistico della Latteria Molloi, che è un locale che fa concerti bellissimi, anche se io non ci sono mai stato. A Brescia. E insieme allo Spazio Polaresco di Bergamo, quindi c'è questo connubio tra le due province che calcisticamente si odiano ma artisticamente si amano, possiamo dirlo. Esatto, sì. Hanno creato un plugged Pola Molloi, che sono una serie di concerti che dal 19 dicembre al 2 gennaio, saltando mi pare due giorni nel mezzo, faranno degli eventi in streaming con un sacco di band e anche della stand-up comedy, insomma, per tenerci un po' compagnia. E infatti è un po' il modo meraviglioso con cui la musica, nonostante tutto, sta andando avanti, che è appunto anche la base della nostra inchiesta rubrica Please Don't Stop the Music. La seconda intervista che faremo sarà alle 16, quindi una dietro l'altra. Poi ovviamente troverete podcast e quant'altro sul nostro sito www.radiocittafujiko.it, ma intervisteremo anche la Room Live Session, che appunto è questa associazione culturale, spazio culturale di Vigevano, che anche loro hanno creato dei concerti in streaming. Ma poi vi racconteremo anche altre cose. Ma tornando alle classifiche, o comunque album interessanti del 2020, secondo la rivista Rolling Stone, uno dei protagonisti del 2020, diciamo anche pre-pandemia, è sicuramente Bugo. Esatto, non so se vi ricordate quella, le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, insomma, tutte, chi non si ricorda di questa cosa? Tantissime parole con la R. Sì, che io faccio una gran fatica a dire, però insomma, è quello che Morgan sul palco di Sanremo ha detto a Bugo. Questo è stato l'evento clou del 2020, pre-pandemia, possiamo dire. Anche perché, come ti dicevo anche in fuori onda, la cosa divertente è che, vedendo poi cosa è successo da marzo in poi, tanta gente in realtà dice: ma non possiamo tornare sui social quando l'unico problema era ridere e parlare di Bugo? Bugo, dove sei? Che succede, Bugo? Che succede? Che succede? Molto divertente. Come, non so se avevi visto, non so se era Radio 2 che stava commentando via radio il festival, e a un certo punto, in quel momento preciso, c'era Elettra Lamborghini che stava commentando insieme ai presentatori, e quando è successa questa cosa, per cui appunto poi sono stati squalificati, Elettra Lamborghini ha detto: cazzo, così adesso sono io l'ultima. Grande Elettra Lamborghini, che salutiamo. Pezzo, secondo me ci segue, perché la stimo un sacco, Elettra Lamborghini. Faccio questo, come si dice, insomma, ve lo racconto. Comunque, Bugo ha fatto uscire un album per ricordare al mondo il suo nome di battesimo, che è Christian Bugatti. L'album si chiama appunto Christian Bugatti, e non solo Rolling Stone ma anche altre riviste che parlano di musica l'hanno inserito tra gli album migliori di questo, di quest'anno, di questo 2020, gli album migliori italiani, ecco. Sì, ecco, bisogna specificarlo, perché poi appunto le classifiche saranno anche sicuramente gli album più ascoltati di Spotify, che già ci sono, ma sicuramente anche YouTube, poi penso ad esempio TM Music, tutte le varie piattaforme dove si ascolta musica, ma anche appunto ad esempio le classifiche FIMI e anche appunto internazionali, quindi si saprà gli album più venduti in Italia, all'estero, insomma sono tantissime le classifiche che usciranno. Però è interessante quando Rolling Stone dice la sua e dice che uno degli album più belli di questo 2020 è questo album di Bugo. Quindi io direi che ce lo ascoltiamo, poi brevissima pausa pubblicitaria, ma soprattutto poi la nostra prima intervista di questo lunedì di Fujiko Factory. La verità, ad esempio, che tua madre è Satana. Quando impazzirò non mi dispiacerà di uscire con lo slip in piazza di domenica, e canterò penso di moda come l'educazione. E il giorno del tuo compleanno verrò a dire che ti voglio bene. Per farmi dire di no. Quando impazzirò, so già come si fa. Farò senza di te, basta togliersi una costola. Quando impazzirò, puoi dirlo pure lui, che vive dei cuccini di De André. Prega per davvero fino a che l'aereo è giusto. E certe cose si fanno per dispetto. E io ti voglio bene. Giovanna d'Arco, farmi un elettroshock. Scemo pure genio, merito un bel premio, sono un manicomio. L'amplesso dalla noia e dal tempo che corrode lentamente la mia storia. Guarda, le radici sul soffitto ti ricordano che hai quasi sempre scritto di un relitto. E abbiamo appena ascoltato Le radici sul soffitto, un pezzo dei Via dell'Ironia. Siamo tornati sui 103.1, sempre Lucri e Mauro in vostra compagnia fino alle 17. Fujiko Factory del lunedì, il nostro numero è sempre 333 180 94 94. Una puntata tutta a tematica, possiamo dire, Please Don't Stop the Music. Ma intanto diamo il benvenuto a Luca Bolsetti della latteria Molloy di Brescia. Ciao, ciao Luca. Ciao ragazzi, ciao a tutti gli ascoltatori. Intanto benvenuto e grazie della disponibilità per essere, insomma, qui con noi su Radio Città Fujiko. Allora, la prima domanda che ti faccio molto velocemente: avete creato questo connubio tra lo spazio polaresco di Bergamo e la latteria Molloy di Brescia per degli eventi live. Com'è nata l'idea di unire questi due spazi per creare qualcosa, insomma? Ma tutto il processo era partito prima del lockdown, nel senso che era nata la volontà di creare una rete di collaborazione reale sui territori per anche sostenersi nelle proposte, riuscire a ottimizzare un po' tutte le parti di una fruizione per un palinsesto di concerti. Poi dopo il lockdown si è bloccato tutto, appena si è potuto a giugno abbiamo riaperto la collaborazione e abbiamo lanciato i due spazi estivi sia a Bergamo che a Brescia, fuori dai due locali, facendo il più possibile di attività quest'estate, con anche la partecipazione di vari artisti che, appunto, proprio perché si potevano fare queste doppie date, si sono anche messi in gioco, come Gianmaria Cusani, come Sleeping Tree e altro. E tutto poi ci ha riportato a ottobre, dove ci dovevano entrambi i club erano in procinto di partire, la batteria era partita, Spazio Polaresco sarebbe partito la settimana dopo, proprio a imminente chiusura del secondo lockdown del 25 ottobre, dove tutto si è ribloccato, e lì la scelta è stata quella di non rimanere comunque fermi in questo periodo qua, ma di provare a fluire tramite nuove strade. Ed è nata questa idea di fare questo palinsesto sul web, che secondo noi è un'idea veramente bella. Noi in queste settimane stiamo cercando di dimostrare che la musica, nonostante tutto, va avanti, e siamo felicissimi di, insomma, essere in un qualche modo partecipi di un progetto che comunque è molto molto bello. Abbiamo appena ascoltato un brano dei Via dell'Ironia. Ci vuoi fare un riassunto del programma di questo mini festival, che ricordiamo si svolgerà in streaming dal 19 dicembre al 2 gennaio? Sì, saranno innanzitutto un palinsesto che vuole continuare, cioè nel senso che è diviso a blocchi. Il primo blocco è proprio quello di queste 10 giornate a cavallo del Natale, dove invitiamo tutti a regalarsi un concerto per Natale e non rimanere completamente senza musica, che secondo me è una privazione anche di anima che non può essere supportata in questo modo, in questo momento così difficile. E i 10 live che sono stati scelti in questo momento sono... si partirà con Bianco il 19, poi ci sarà il 20 dicembre in realtà una partecipazione di stand up di Pietro Sparaccino, il 21 dicembre ci sarà Via dell'Ironia, le ragazze che avete appena ascoltato, che sono con un album inedito in questo periodo qua di lancio, poi ci sarà la partecipazione di Legno, poi di Gulino, dei Dunk, ci sarà altri due appuntamenti di stand up in situazioni di collettive, quindi con più artisti che si esibiranno contemporaneamente, e il tutto poi si vuole chiudere ipoteticamente entro il 2 gennaio per poi fare un secondo blocco di appuntamenti da metà gennaio in poi. Fantastico, tutto il programma chiaramente lo trovate sia sulle pagine Facebook che sui siti legati allo Spazio Polaresco e alla Latteria Molloi. E, una domanda semplice, diciamo, per partecipare agli eventi, appunto ascoltare questi concerti o gli stand up, cosa devono fare gli ascoltatori? Come si partecipa? È tutto molto semplice, basta entrare sulle nostre pagine o Facebook o Instagram di Polaresco, di Latteria, oppure anche proprio dalla pagina di Plugged Pola Molloi, e lì ci sono dei link per accedere alla piattaforma di Rebel, che è una delle primissime piattaforme in Italia che ha il codice univoco, quindi la possibilità di creare dei biglietti per degli eventi streaming unici che non possono essere condivisibili, quindi ogni persona ha praticamente un biglietto reale nel web per poter vedere un concerto. E nella piattaforma di Rebel ci sono dei link semplicissimi dove uno può acquistare online il suo contenuto, il giorno del concerto gli arriverà un codice, accedendo sempre a questa piattaforma tramite quel codice vedrà il contenuto. Ogni contenuto rimane online un solo giorno, precisamente dalle 18 di sera fino alle 24. Durante queste 6 ore ognuno lo può vedere e poi questo contenuto non sta più sul web. Beh, diciamo che vi siete organizzati molto bene. In realtà è tutto partito un processo nel primo lockdown. Noi abbiamo partecipato a Stay On, che era una maratona musicale per il sostegno degli ospedali con creazione di contenuti artistici da artisti un po' da tutta Italia, sponsorizzata e spinta da tutti i club. E lì abbiamo visto le più disparate utilizzi del web. Poi è arrivato un contenuto che è stato molto per noi folgorante, che era quello di Alberto Ferrari di Verdena, che ha fatto questo contenuto di 25 minuti ma da casa sua. E lo ha fatto con un'intimità, un taglio di fotografia che era veramente particolarissimo, perché ha reso la ricchezza che poteva avere quel contenuto nel web. Quindi abbiamo capito che esistono dei contenuti veri e propri che possono essere distribuiti su web e devono esistere in quel contesto lì, perché nella normale realtà non li potremmo vedere. Cioè, vedere Alberto Ferrari in pigiama che ti suona voci chitarra, dei brani di Verdena, delle cover di Elvis e tutto, è un'emozione secondo noi unica. E lì abbiamo capito che se riusciamo a dare un taglio, un utilizzo del web, davvero può essere una forma integrativa per fruire di contenuti artistici, e secondo noi questa è la chiave fondamentale, ma anche perché vorremmo usarlo anche quando potremo riaprire. Una delle idee che ci è venuta è quella del poter far fruire i nostri utenti quando verranno a vedere dei concerti, tipo i concerti più grossi che abbiamo fatto, i Motorcycle nel 2019, poter far fruire i nostri utenti anche di contenuti extra di quella giornata lì, creando dei making of della giornata da mettere online, e uno dopo essersi visto il suo concerto della band preferita nel nostro club, torna a casa e tramite delle possibilità che daremo noi di contenuti può vedere ancora dettagli di quella giornata che è per lui magica, che rimangono unici anche come contenuti, perché sono una modalità per scoprire cosa sta dietro anche il mondo dei live, una sorta di dietro le quinte degli eventi, sì, dal vivo. Ma si è sempre parlato delle nostre figure, delle figure di direttori di produzione, dei fonici, dei tecnici, che nessuno ha mai potuto realmente vedere fisicamente e capire nella loro funzione, così queste figure lavorative davvero diventerebbero voci narranti all'interno di un panorama artistico, e mai come oggi serve farle conoscere. Assolutamente, infatti mi sembra è bello come in realtà in questo periodo la musica si stia reinventando, ma soprattutto forse mi viene da dire finalmente iniziano a essere scoperte quante figure professionali stanno dietro questo mestiere, sia a livello radiofonico e televisivo, ma soprattutto della musica live. E quindi vediamo che è un periodo molto difficile per la musica, ma almeno cercando di vedere il lato positivo stanno nascendo tantissime situazioni molto interessanti per il panorama musicale da qui ad avanti, insomma. Quindi vi ricordiamo l'appuntamento con il Plugged Pola Molloi, e ringraziamo tantissimo Luca Borsetti, appunto direttore artistico della Latteria e di questa iniziativa, per essere stato con noi. E adesso grazie Luca intanto. Sì, e vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo, vi seguiremo e ci salutiamo ascoltandoci i Dunk e altro. guardo e sento che il mondo esiste dentro un sogno gigante di una luna nera. E abbiamo appena ascoltato i Dunk con Altro, vi abbiamo appena parlato di questa fantastica iniziativa tra Bergamo e Brescia, ma la cosa bella in realtà è che potete fruirla ovunque voi siate, quindi era bello far conoscere anche i nostri bolognesi in ascolto un'iniziativa che fa continuare in un qualche modo la musica, come la prossima che faremo alle 16, ma prima parliamo di un altro festival che ha qui noi abbiamo scoperto che ci piace tantissimo. Io qui in radio parlo spessissimo del Miami Festival a Milano. E ricordiamo anche ai nostri ascoltatori di scriverci i loro festival preferiti al 333-180-94-94 e il Miami Festival. Ecco, c'è una cosa che devo dire sul Miami. Sì? Il parcheggio mi costava un pochino troppo. Ecco, ammetto che il parcheggio del Miami non mi manca, ma come in realtà qualsiasi concerto che si fa al Circolo Magnoli a Milano, cioè se non paghi tanto di biglietto, Lo vai a pagare in parcheggio, devo dire. Però dai, tolta questa cosa, il Miami è veramente un festival molto figo, con questi quattro palchi in giro per l'idroscalo di Milano, intorno al Circolo Magnolia, con musica varia che spazia. Mi ricordo, ci ho visto Aurora Borealo, sì, mi pare. Sì, anch'io, meraviglioso. I Prozac più ho visto, sì, che si riunì, insomma, è un gran festival il Miami. E poi è bellissimo perché la maggior parte poi degli artisti gira e si va a vedere anche lui i concerti. Quindi io ho visto, ero a fianco a Calcutta a guardarmi un concerto, o allo stesso tempo ero in coda a comprarmi le polpette con Appino degli Zen Circus. Quindi scopriamo che Appino mangia le polpette. Mangia al Miami le polpette, assolutamente, o Vasco Brondi in coda per prendere il panino con la salamella. Quindi questa è proprio storia di vita vera. Quindi è bello incontrarsi in questi festival, ma soprattutto a me la cosa che piace sempre molto, mi piace un po' sbirciare tra le dietro le quinte, è come anche gli artisti tra loro sono amici, davvero. E quindi vedi, insomma, che stanno, che parlano, poi magari si improvvisano insieme sul palco. Io del Miami ho un ricordo bellissimo dei Tre Allegri Ragazzi Morti e di Calcutta. Praticamente qualche anno fa c'era l'applicazione che ti avvisava di cose che succedevano segrete al Miami, e a un certo punto era arrivata l'annuncio che a Luna sarebbe successo qualcosa al palco principale, e quindi praticamente a un certo punto c'erano migliaia e migliaia di persone, cosa che se ci penso adesso mi manca moltissimo. Palco più grande, e entra silenziosamente nel buio Calcutta col cappellino e chitarra e fa cantare tutti, quindi ha fatto tipo 3-4 pezzi in versione acustica ed è stata una... Poi io Calcutta in realtà l'ho visto anche proprio in concerto vero e proprio più volte, ma quella lezione lì acustica dove tutte queste persone cantavano anche canzoni uscite da pochissimo è stata una cosa molto bella. Emozioni che ci mancano un casino. Calcutta è un pochino che non fa dei nuovi album, dei nuovi no, brani. È vero, è vero. Calcutta, ma chissà dove sei, se ci stai ascoltando mandaci qualcosa, che ne so, un singolo, qualcosa di nuovo, che è sicuramente in giro per Bologna, perché Calcutta più volte lo si vede qui. Ma appunto prima vi citavo i Tre Allegri Ragazzi Morti, che sono stati l'ultimo mio concerto di questo 2020, quello sprazzo di vita che c'è stato a settembre, col Tutto Molto Bello. E quindi io mi sono vista live, forse per la seconda o terza volta, i Tre Allegri Ragazzi Morti, e una delle loro canzoni più belle, secondo me, rimane La Mia Vita Senza Te. La mia vita senza te non è così diversa, faccio tutto un po' più piano. Senza te da te. Non è così diversa. Io non canto per non piangere. E non piangerò. La mia vita senza te. Non è così diversa. Io non canto per non piangere. E non piangerò. La mia vita senza te. Allegri, ragazzi morti, le donne non piangono mai, secondo Davide Toffolo e i Tre Allegri, ragazzi morti. È una canzone che a me piace sempre tantissimo e loro li ho visti ormai live un po' di volte e sanno tenere il palco in un modo bellissimo. Io Toffolo da solo l'ho visto quest'estate qui in zona Santa Viola, Ponte Lungo, che c'era sto specie di festival, suonava in acustico e presentava il suo fumetto, sì, che su Instagram si vede tantissimo, del il coronavirus, forma di fumetto, insomma, una roba tra il divertente e il triste anche, perché beh, poi sì, insomma, è abbastanza pesante anche alcune cose. Vabbè, però è come l'arte, in realtà in quasi ormai un anno ci sono tantissime canzoni che sono uscite che o citano le mascherine, il gel, la quarantena, cioè la musica e l'arte in un qualche modo per forza doveva narrare anche una cosa così gigante che ormai ci portiamo dietro da quasi un anno, quindi da qui anche appunto la nascita della nostra puntata, o comunque della nostra rubrica Please Don't Stop the Music, ma appunto sono nati fumetti, sono nate tantissime cose. Al cinema con Ezio Greggio, esatto. Vabbè, quello magari. Quello secondo me non l'ha visto nessuno. Magari per curiosità andrei anche a vederlo, giusto per dire se davvero fa schifo come potrebbe apparire, oppure se è un capolavoro, chi lo sa. Chissà. Vabbè, se lo avete visto potete farcelo sapere, noi non partiamo col pregiudizio. 333 180 94 94, ma io direi che andiamo in una pubblicità brevissima, poi vi facciamo ascoltare, dopo aver ascoltato Bugo, dov'è Bugo, dov'è Morgan, vi facciamo ascoltare un brano di Morgan che è altrove, appunto perché Morgan era andato altrove, o forse Bugo, chi lo sa. Ma poi finalmente abbiamo la nostra seconda intervista di oggi, dalla Lombardia ci spostiamo e andiamo a Vigevano, che è comunque in Lombardia, Luca. Infatti ti stavo per dire, dove è Vigevano? In provincia di Pavia, in mezzo un po' alle zanzare. Volevo vedere se eri concentrato. E adesso consigli per gli acquisti. Reclam, come direbbe Antonella Clerici. Conosco ed esco. Dopo i fiori avesse visto. Svincolarsi dalle convinzioni, dalle pose, dalle posizioni. Svincolarsi dalle convinzioni, dalle pose, dalle posizioni. Lascio che le cose mi portino altrove. Lascio che le cose mi portino altrove. E come vi avevamo anticipato con Morgan in sottofondo con Altrove, iniziamo la nostra intervista, seconda intervista di oggi per Please Don't Stop the Music. Iniziamo l'intervista col piede sinistro, che come sta cantando Morgan è quello giusto. Trolliamo, insomma. Sei d'accordo? Io sono d'accordissimo. E quindi abbiamo appena ascoltato Morgan che ancora canta in sottofondo, ma io direi, Mauro, che se anche tu sei pronto possiamo passare alla sigla. Discoteche chiuse e mascherine obbligatorie all'aperto nei locali. Stretta del governo per contenere la diffusione del coronavirus in seguito all'aumento negli ultimi giorni dei casi positivi. Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Un reddito di continuità che possa, tra un contratto e l'altro, dare uno strumento di reddito ai cittadini, professionisti e professionisti dello spettacolo. La musica dal vivo ai tempi della pandemia. Continuiamo quindi a parlare di Please Don't Stop the Music. Esatto. Per piacere, non fermate la musica. Ma quanto è bella questa sigla, io lo dico ogni volta perché è stata fatta appositamente dal nostro direttore. Devo dire che sono tutti spezzoni di cose che sono state dette sulla musica, e appunto noi portiamo da mesi ormai avanti il nostro slogan: non fermiamo la musica. E a proposito di non fermare la musica, siamo al telefono con Francesco Capasso, che ci parlerà di un'altra iniziativa che si svolge più in streaming, ecco. Esatto, infatti diamo il benvenuto sui 103.1 a Francesco Capasso, che è in collegamento telefonico con noi, e tu sei il socio di La Room ma anche il chitarrista degli Zona, che ascolteremo tra pochissimo. Benvenuto. Sì, buongiorno a voi, grazie per l'invito e ai vostri ascoltatori. Ma ti chiediamo subito come è nata l'idea di questo progetto, che è veramente molto molto bello. Allora, questo progetto in realtà non in forma così come è uscito quest'anno, c'è da diversi anni. Facciamo delle piccole rassegne di concerti con ospiti musicali da tutta Italia, anche internazionali. E quest'anno per forza di causa maggiore siamo stati obbligati a farlo, ci siamo dovuti reinventare la formula e a farlo senza pubblico, e quindi abbiamo fatto questa produzione di audio video invitando delle band e facendolo in questo modo, insomma, che ci piace molto, ma ovviamente ci auguriamo che sia la prima e ultima volta, nel senso non per scelte di causa di forza maggiore, perché speriamo quanto prima, come tutti, di uscire da questo tunnel e di fare nuovamente cose con anche la presenza del pubblico. Esatto, dal vivo e nella Room. La Room è poi una piccola stanza, no, che accoglie gli artisti con l'abat-jour, i mobili antichi, come un po' una roba molto intima, no? E i concerti anche quest'anno saranno lì dentro. Chi si esibisce nella Room Live Session di quest'anno? Allora, quest'anno abbiamo invitato tre band del panorama musicale vigiovanese, che Vigevano, faccio questa premessa, una città di 60.000 abitanti, che però vanta nel suo passato, nel suo presente, ci auguriamo anche nel suo futuro, una scena musicale molto attiva. E quest'anno abbiamo invitato tre band, che sono i Quadra, gli Anna Ox e gli Zona. Sono band di generi musicali molto diversi tra loro, che rappresentano un po' una fotografia di quello che sta succedendo adesso a Vigevano. Insomma, i Quadra sono una band che ha all'attivo diversi dischi, che gira l'Europa, che gira l'Italia, idem per gli Anna Ox. E gli Zona, di cui io ho fatto parte e faccio parte, sono una band attiva, che si è formata nel 1994, che poi ha avuto circa 20-25 anni di pausa, di stop, dove poi nel frattempo ognuno di noi ha fatto altre cose, musicalmente parlando ovviamente, e adesso ci siamo rimessi in pista. L'abbiamo fatto non apposta per questa cosa, stavamo già lavorando del materiale nuovo e abbiamo colto la palla al balzo e ci siamo infilati anche noi dentro questa rassegna. Che appunto la rassegna è la Room Live Session, appunto online in streaming. Indie Zone è media partner di questo progetto. Ti chiediamo, e così lo raccontiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, come si può accedere ai vostri eventi live? Allora, in realtà appunto dire streaming è una cosa forse leggermente inesatta, nel senso che sono stati prodotti e registrati i primi di ottobre questi concerti, quindi vengono poi con come dicevi giustamente tu, abbiamo Indie Zone, il nostro partner, e quindi per poter vedere i concerti vengono caricati sul portale di Indie Zone, che appunto li presenta in esclusiva, e quindi per poter vedere i concerti si deve, sono un po' pubblicizzati sia su Indie Zone che su tutte le nostre pagine, su tutti i nostri canali. Si va sul loro portale e vi si accede tranquillamente, oppure poi in un secondo momento tramite YouTube. Ok. Fantastico, adesso ti faccio una domanda un po' più complessa. Noi con la nostra rubrica qui a Radio Città Fucico, Please Don't Stop the Music, cerchiamo di dar voce un po' a tutti quelli che sono i lavoratori della musica e dello spettacolo, che spesso voce non ne hanno, soprattutto chi sta un po' dietro le quinte. E tu, voi come associazione, insomma, come state vivendo questo periodo, e secondo te cosa si può fare per migliorare anche in futuro la fruizione della musica dal vivo? Allora, bella domanda. Noi cerchiamo di darci da fare il più possibile, tenendo conto che la maggior parte, un po' come tutte le realtà culturali italiane in questo momento, siamo un po', cioè, anzi senza un po', siamo parecchio bloccati, nel senso che la UM è una realtà che vive di tantissime cose legate alla musica, a cominciare appunto, noi siamo anche una scuola di musica. Facciamo laboratori, presentazioni di libri, corsi di yoga, abbiamo le sale prova, abbiamo lo studio di registrazione, dove abbiamo fatto un sacco di produzioni anche discografiche, abbiamo la nostra etichetta discografica, e quindi la maggior parte delle nostre attività riguardanti soprattutto le attività con pubblico o attività di gruppo sono bloccate. Quindi proseguiamo con tutte quelle tipologie di attività che invece non prevedono queste due situazioni, e ovviamente implementando tutto quello che è anche la didattica a distanza, soprattutto per quanto riguarda i corsi e le lezioni di musica. E niente, insomma, quindi anche per quanto, come abbiamo fatto per i concerti, cioè l'unica strada che vedo percorribile al momento è la digitalizzazione, ossia quello di produrre dei contenuti che poi possano essere immediatamente riverberati sui canali digitali. Appunto, tengo comunque a sottolineare che la dimensione, cioè niente potrà mai sostituire per quanto ci riguarda il fatto di andare a un concerto fisicamente e a livello empatico condividere quel momento con l'artista. Tra l'altro, come dicevate giustamente voi, la Room è una stanza relativamente piccola, dove la nostra formula prevede appunto prevedeva questi concerti col pubblico, e quindi artista e pubblico erano strettamente a contatto, cioè avevi la possibilità di vedere la tua band seduto in mezzo a loro, quindi proprio una situazione che ahimè va veramente a cozzare contro quelle che poi sono le limitazioni che ci sono in questo periodo. E ci trovi effettivamente pienamente d'accordo. Noi abbiamo fatto tutta questa puntata sui festival, sulla musica dal vivo, ci manca tantissimo e ovviamente, come dicevi anche tu, la digitalizzazione non può essere una soluzione permanente, però può essere, diciamo, una buona toppa per gli amanti della musica, dei live e chi ama comunque continuare a seguire i propri artisti. Noi ti ringraziamo e vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo, continuate a portare avanti la musica e noi ci ascoltiamo dopo la sconfitta. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Giro sul monte. Sottofondo stiamo ascoltando dopo la sconfitta il brano dei Zona, dopo la sconfitta appunto, e vi ricordiamo che queste due interviste di oggi per contribuire e portare avanti la voce a chi voce non ce l'ha con Please Don't Stop the Music, troverete tutti gli articoli in questi giorni sempre solo sul nostro sito www.radiocittafucico.it e i nostri canali social. Che puntata poliedrica, siamo molto passati poliedrica. Da Bad Bunny col suo reggaeton trap e senti qua e passiamo all'hardcore metal degli Zona proprio da un estremo all'altro, da un estremo all'altro, per insomma a 360 gradi dire a gran voce quanto ci manca la musica, ma quanto è bello. Come diceva, si parlava dell'intervista poco fa, la digitalizzazione della musica. Ovvio che anche quando noi ascoltiamo in cuffia le canzoni di Spotify, ad esempio, ritornando un po' al focus della puntata delle classifiche, non è ovviamente la stessa cosa che, come direbbe Vasco Brondi, stare con le transenne tra le costole. Però comunque è una sensazione che ci manca, però quando vengono creati dei contributi fatti apposta in questo momento per un pubblico, quella cosa lì ha un gran valore. Voi, mi ricordo che a casa avete con il proiettore avete proiettato un concerto che avete comprato in streaming. Sì, noi ci siamo seguiti il Barezzi Festival, esatto, che è stato molto bello, con c'erano i Marlene Kunz, c'era Bruno Risas, Vinicio Capossela, Margherita Vicario, cioè non è la stessa cosa che averli dal vivo, ma insomma Erika che è bassa ad esempio poteva vedere volentierlo senza persone davanti, ecco. Beh, effettivamente, vista così, è una buona alternativa. Tra l'altro, altre cose meravigliose musicali a dicembre, che potete trovare sempre in streaming, tra Bologna e Cesena, si terrà la quarta edizione di Uni Reading, che è una rassegna di letture non convenzionale in luoghi simbolo delle città. Diciamo che associazioni, istituzioni, università, comitati, soggetti privati sono coinvolti all'unisolo con l'intento di arricchire la proposta culturale delle città, valorizzandone gli spazi più suggestivi. L'edizione 2020 ovviamente, per ovvi motivi, si è spostata sul web in live streaming dalle location in cui si sarebbero dovute tenere, quindi comunque non sono dalla stanzetta di casa, ma almeno si stanno potendo muovere per arrivare alle location. Infatti, ad esempio, c'è chi sarà al TPO o all'oratorio San Filippo Neri qua di Bologna, Teatro Verdi di Cesena. Il fine è quello di creare una serie di appuntamenti che possono essere di attrattiva per tutta la comunità bolognese e cesenate, studentesca e non, e poi appunto con la possibilità di... Sì, gli incontri possiamo dire sono iniziati martedì 1 dicembre, andando avanti fino al 18, quindi oggi no, ma domani ad esempio al Teatro Verdi di Cesena ci sarà Massimo Cicognari, poi ci saranno incontri, letture dal TPO, appunto ci sarà Giancane il 15 dicembre, ci sarà Giovanni Truppi anche il 16 dicembre, insomma anche questi artisti indie che portano avanti questa iniziativa, che peraltro aggiungiamo sono in live streaming e sono anche gratuiti, e li potete seguire sulla pagina Facebook di Unireading e quella dell'Università di Bologna, Alma Mater Studiorum di Bologna. Tu ti sei laureato a Bologna? Io mi sono laureato a Bologna, ecco, sì. È un'altra cosa che abbiamo in comune, oltre la bergamosità, siamo entrambi laureati in Unibo. Tota. Ma io vorrei darti un'idea per il 2021, non so che piani tu abbia, tu e Erika, insomma, però io ci sto iniziando a pensare, perché ho scoperto che c'è un resort alle Maldive che propone per tutto il 2021 una curiosa formula a prezzo fisso per soggiornare in un lussuoso bungalow, vista mare, quanto si desidera. Insomma, una settantina di euro al giorno, che è veramente pochissimo per il Anantara Valley Maldives Resort, una struttura, sì, vicino alla capitale Malé. Tu sei mai stata alle Maldive? No, ma non vedo l'ora sinceramente di andarci, anche perché praticamente è una sorta di all you can eat, cioè sai quando vai a tipo al cinese, mangi all you can eat, paghi una cifra e mangi tutto. Qui praticamente fai un abbonamento di un anno e puoi starci 365 giorni come 20, però ovviamente paghi una formula di un anno, e secondo me è un'idea molto originale, perché tu ovviamente sarai un resort, quindi servito e riverito, camera vista mare e niente, paghi sì circa una settantina di euro al giorno, potrebbe essere un ottimo investimento. E poi da lì magari ti segui il live streaming dei concerti che non riesci a vedere dal vivo, oppure chissà, magari alle Maldive l'anno prossimo faranno un sacco di festival live, rock, hard rock, chissà. Chissà, ma ci è arrivato un audio molto divertente che ora vi facciamo ascoltare, perché noi vi abbiamo chiesto se anche a voi mancano i live, ma insomma vi stiamo chiedendo cosa vi manca dei live, e è arrivato questo audio. Ah, che nostalgia, i festival. Niente, la cosa che mi manca di più in assoluto a me, nonostante la mia piccola statura, è comunque la calca del pubblico davanti a un concertone bello potente, che te posso dire, un Fast Animal and Slow Kids, bello, belli arrabbiati, tutti quanti che pogano, sudano e sono contenti tutti insieme. Bellissimo, sono d'accordo con questo nostro ascoltatore, che ringraziamo per averci fatto compagnia con la sua voce e i suoi racconti. Effettivamente anche a me manca pogare, mi mancano il sudore anche. Sì, quei concerti in cui insomma si entra magari in un mood, ma poi esci da lì che ti senti proprio libero, felice, e quindi è questo che perlomeno a me, ma sono sicura anche a te Mauro, ci manca dei live, l'unione che si crea, le persone che si conoscono, non lo so, è una cosa che ci manca molto. Ma ahimè Mauro, la nostra prima puntata tutta bergamasca bolognese insieme è quasi giunta al termine. abbiamo scelto ovviamente di concludere con un brano che ci rappresenta in pieno, ma come ogni giorno il nostro Fujiko Factory è fino alle 17 e finalmente puoi dirlo tu cosa ci sarà più tardi, tra pochissimo. Ecco, tra poco io e Erika, che tutti i lunedì vi portiamo alla scoperta di un disco della settimana, oggi vi presentiamo una compilation che si chiama Herdema Mademe, che significa siamo tutti pronti, siamo tutte pronte, che poi lo capirete anche ascoltando il contributo, è dedicato a Lorenzo Orsetti. Sì, no, stavo pensando che in realtà è divertente che ti autoannunci, poi noi andiamo via, ma ovviamente è un contributo che registrate qua in studio o da casa, ma è questo progetto che te, Erika, portate avanti da qualche anno ormai. Ed è una roba molto divertente perché ci arrivano dei dischi molto interessanti, quindi scopriamo della roba nuova di generi che magari non avremmo neanche lontanamente sfiorato, ecco. E io prima o poi aspetto anche il disco della settimana con il tuo gruppo. Non lo so, se ci sarà mai un disco del mio gruppo. Ma anche un EP, un singolo, dovete assolutamente, quando si potrà, venire qua in radio e suonare per noi. Potrei auto-intervistarmi. Sì, potresti. Quando si dice te la suoni e te la canti. Esatto. Quindi in questo caso letteralmente te la suoni e te la canti e ti intervisti. Secondo me funzionerebbe tantissimo. Faccio tutto da solo. Dai. Esattamente. Noi vi ringraziamo per averci ascoltato. Mi raccomando, rimanete sintonizzate e sintonizzate fino alle 17. Poi vabbè, ovviamente la programmazione continua anche col nostro direttore, ma noi vi salutiamo con un brano che è No No No dei Pinguini Tattici Nucleari, che sono molto bergamaschi anche loro, ma sono rimasti a Bergamo. Pare di sì. Pare di sì. Al momento noi invece no, e infatti Fujiko Factory torna domani dalle 13 e dalle 15 alle 17. Vi auguriamo una buona continuazione. Ciao. La la la la la la. E ieri ho fatto un sogno, no, no, no. E c'eri dentro anche te, leggevi piccoli brividi, no, no, no. E bevevi un caffè con me. Non riuscivamo a dormire, no, no, no. Ci siamo messi a ridere della paura di morire, della voglia di partire, della gioia di vivere. Ti leggevo la mano, no, no, no. E la imparavo a memoria. E se ho fortuna ti giuro che un giorno ti porto nei libri di storia. E me l'ha detto il pakistano, da cui ho comprato le rose. Capo, ricordati che la felicità sta dentro alle piccole cose. Oh. Yeah, yeah, yeah. E stai da te, resti qua, perché la più grande libertà è quella che ti tiene in catene. Yeah, yeah, yeah. I pugni in faccia che mi dai, li conservo nell'anima. Accanto a tutti ti voglio bene. Oh. Ieri mi sono svegliato, erano circa le 3. Quando il telefono non ha squillato, io l'ho capito che eri te. Hai detto impara a vivere da solo, ma solo ci sapevo stare. La mia solitudine era un mondo magico che io ti volevo mostrare. Che bello quando balli con quegli occhi gelidi. Mi piace se ti muovi come fanno i lemuri. Sono l'ultimo dei tuoi pensieri, tu mi eviti. Ma gli ultimi saranno i primi come Steven Bradbury. Tu sei la sfida finale di Takashi Scasso. Io ci provo a capirti e non capisco un caso. Guarda che notte c'è la luna piena. E ti citiamo solo perché mi fai pena. Yeah, yeah, yeah, yeah. E spetti da te resti qua. Perché la più grande libertà è quella che ti tiene in catene. Yeah. I pugni in faccia che mi dai, di cui salvo nell'anima. Accanto a tutti ti voglio bene. Giuro non lo so, no. Yeah, yeah, yeah, yeah. E stati da te resti qua. Perché la più grande libertà è quella che ti tiene in catene. Yeah, yeah, yeah. I pugni in faccia che mi dai, ti conservo nell'anima. Accanto a tutti ti voglio bene. Yeah. andavo